Marco, capitolo dodicesimo. E prese a dir loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro, e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma quei lavoratori dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga». Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Ed essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran sette fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie, e il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie?» Gesù disse loro: «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendano né danno moglie, ma son come gli angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e dalla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente». Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore e Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse, «Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici». E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse, «Tu non sei lontano dal regno di Dio». E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire, «Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo, «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo? E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento, «Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggior condanna». E postosi a sedere di rimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere».